Beyond the sun. Grazie molte. Buonasera, buonasera, non in tono formale, ma buonasera perché vogliamo che sia una buona sera. Si ha bisogno di buone sere ogni tanto. Sto parlando italiano, ho detto buonasera, non mica detto good night, scusa. Se forse non mi spiego bene, cercherò di migliorare. Ora volevo dirvi questo brano che noi abbiamo eseguito ora. Questo brano che abbiamo eseguito ora si chiamava Rip. E se la prima parte per te è questo, l'abbiamo fatto in inglese solamente perché riteniamo che, siccome questo è l'album che uscirà, che è uscito ora in tutto il mondo, è un album fatto in inglese, allora abbiamo ritenuto opportuno che il pubblico che ci ha seguito fino ad oggi, cioè il nostro pubblico italiano, sia il primo a sentire com'erano. Qual era l'effetto di un certo tipo di nostro discorso fatto in inglese?